All'aria, all'aria, sa la passaie, l'afflitta dolorosa de Maria, oi de Maria, l'afflitta dolorosa de Maria, vede a lo figlie su e strascinate, miezzana chiorma de cavalleria, cavalleria, miezzana chiorma de cavalleria, correte tutte qua le verginelle, città vede Gesù che è malate, che è malate, città vede Gesù che è malate, sopra la croce gli attese fatte, lu cusciniele de spine granate, spine granate, lu cusciniele de spine granate, alla sinistra c'è l'amata Cogielu sangon ta naiarra fine, naiarra fine. Cogielu sangon ta naiarra fine, salla pigliata na, botta de lancia. Alla parte sinistra del cuore, oi del cuore, alla parte sinistra del cuore, sa dale vai stendarde russe. La trumme non selente de sonaie, oi de sonaie. La trumme non selente de sonaie.